La storia e la memoria di Dino Pesole. È il 18 ottobre del 1990. L'allora presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, invia alla Commissione parlamentare sulle stragi una relazione dal titolo Il cosiddetto SID parallelo, Operazione Gladio, le reti clandestine a livello internazionale. Nel documento il governo italiano conferma per la prima volta l'esistenza di un'organizzazione segreta chiamata Gladio, la cosiddetta Stay Behind italiana, una struttura armata composta da civili e militari che per circa 40 anni ha avuto il compito di difendere il territorio nazionale in caso di aggressione da parte di un esercito straniero. Nuove e importanti particolari di questa pagina della nostra storia emergono ora grazie al libro pubblicato da Einaudi, scritto da Giacomo Pacini, dal titolo Le altre Gladio, la lotta segreta anticomunista in Italia, 1943-1991. Giacomo Pacini, ricercatore e saggista presso l'ISGREC di Grosseto, è con noi questa sera proprio per illustrarci la novità contenuta nel suo saggio. Buonasera e benvenuto. Salve, buonasera a voi. La relazione di Andreotti ebbe un eco enorme presso l'opinione pubblica. Per mesi la vicenda di Gladio fu ampiamente ripresa dai giornali, alimentando dibattiti e scontri politici che culminarono nella richiesta di impeachment contro l'allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Ma Gladio, nata nel 1956, era solo una porzione di un sistema di sicurezza ben più complesso e articolato, una rete anticomunista che operava fin dall'estate del 1945. In tutti i paesi del Patto Atlantico, l'operazione prese il nome di Stay Behind, stare indietro, agire alle spalle. Compito della CIA era fornire finanziamenti e armi, mentre il SIFAR, l'allora servizio segreto italiano, era incaricato, tra l'altro, del reclutamento dei soggetti ritenuti idonei a far parte della struttura. A livello politico, gli unici a essere informati dell'esistenza di Gladio erano i presidenti del Consiglio e i ministri della Difesa, che venivano istruiti direttamente dal servizio segreto allorché entravano nell'esercizio delle loro funzioni. Dunque, Giacomo Pacini, una vera e propria struttura paramilitare immaginata in chiave soprattutto anticomunista, da quel che poi si è capito. Assolutamente sì, Gladio venne creata nel 1956 sulle ceneri di strutture già preesistenti e che operavano in larga parte lungo il fronte orientale e che erano nate da vecchie organizzazioni partigiane anticomuniste. Tuttavia, come ha detto perfettamente lo speaker, Gladio, quantomeno la Gladio che fu portata alla luce nell'autunno del 1990, era solo una parte di un sistema di sicurezza molto più articolato. Oggi, grazie ai documenti che sono emersi nel corso degli anni, è possibile cominciare a delineare il apparato anticomunista, di cui Gladio appunto era semplicemente uno spicchio. Probabilmente era la parte più legale. Questo è un aspetto abbastanza importante da sottolineare, perché spesso Gladio e certe strutture ad esse affini sono state sbrigativamente considerate organizzazioni eversive e nate al fine di sovvertire la democrazia, mentre in realtà nel contesto della Guerra Fredda l'esistenza di organizzazioni che si dovevano attivare qualora il nostro paese fosse stato invaso era oggettivamente legittima, perfino doverosa. Tuttavia è documentalmente provato, ne parlo diciamo a lungo nel libro, che parallelamente e anche indipendentemente da organizzazioni come Gladio hanno operato organismi che non avevano nulla a che fare con la legittima necessità di difendere il territorio italiano dal pericolo, diciamo così, sovietico, e che oggi finalmente siamo in grado, come dire, di conoscere in gran parte dei loro aspetti. Probabilmente Gladio è stata un po' una sorta di, come dire, capro espiatorio per tenere nascoste altre strutture che magari ebbero un ruolo in alcune oscure vicende della nostra storia. Ecco, quanto agli sviluppi della questione Gladio, nell'introduzione al suo libro si riassume così l'esito delle inchieste giudiziarie condotte negli anni. Sulle attività di Gladio hanno indagato 5 diverse procure: Venezia, Roma, Palermo, Bologna e la Procura Militare di Padova. Sono stati istruiti 10 procedimenti giudiziari in relazione a presunte deviazioni eversive di cui i responsabili della struttura si sarebbero resi colpevoli. Tuttavia, nessuna di queste inchieste è mai sfociata in condanna e nel procedimento che si aprì presso la Procura di Roma, dove a metà degli anni 90 confluirono le istruttorie ancora in corso, furono gli stessi pubblici ministeri a scagionare gli imputati da qualunque ipotesi inerente a un loro coinvolgimento in fatti di tipo eversivo. Nel luglio del 2001 è caduta anche l'ultima accusa di presunta indebita soppressione di documenti, finalizzata a occultare prove di connessione tra Gladio e movimenti di estrema destra. Dunque, Giacomo Pacini, stando almeno alle sentenze, la struttura era pienamente legittima, nessun intento eversivo. Assolutamente, dal punto di vista giudiziario la vicenda si è chiusa con un luogo a procedere, gli ultimi responsabili della struttura sono stati assolti da qualsiasi accusa, ma è chiaro che lo strumento giudiziario non è adeguato per analizzare vicende di questo tipo. Non a caso appunto si dice molto spesso che verità storica e verità giudiziaria non coincidono. Oggi, a distanza di anni, come scrivo nel libro, dalla chiusura delle inchieste, è possibile appunto fare una riflessione più ponderata sulla vicenda Gladio, inserendola nel contesto in cui, nel contesto storico, geopolitico, in cui quella struttura sorse, e evidenziando appunto che quella organizzazione, che è stata accusata di qualsiasi nefandezza, in realtà non ebbe un ruolo nella cosiddetta strategia della tensione. Furono altre le strutture, altre Gladio, chiaramente il titolo è un po', come dire, convenzionale, ma furono altre le strutture che agirono, e Gladio probabilmente è stata una sorta di specchietto per le allodole, per tenere nascosto magari connessioni fra apparati dello Stato e settori delle versioni di destra che realmente poi hanno agito in alcune nella cosiddetta strategia della tensione. Ecco, venendo proprio alla struttura di Gladio, ma com'era composta? C'era una organizzazione militare, c'erano dei vertici che la guidavano, c'erano delle strutture operative? Gladio era incardinata nei servizi segreti, nella allora cosiddetta quinta sezione del SIFAR, poi SID, poi diventata settima divisione del SISMI, aveva una sua base operativa in Sardegna, nell'area, diciamo così, per comodità di Capo Marargiu, dove avvenivano addestramenti, si insegnava, e vi erano veramente varie sezioni operative, vi erano l'area che si occupava per esempio della esfiltrazione di eventuali agenti caduti in mano nemica, la sezione che si occupava del sabotaggio dei ponti o delle vie di comunicazione e così via. Era una struttura per certi versi neanche poi troppo originale, perché poi organizzazioni di questo tipo esistevano fin dall'epoca napoleonica, e doveva attivarsi, diciamo così, nel momento in cui il nostro paese fosse stato invaso da un esercito straniero, e attuare forme di lotta partigiana per, come dire, forme di lotta non convenzionale per cercare di bloccare l'avanzata e poi favorire la controffensiva degli eserciti cosiddetti ufficiali. Ecco, ma cosa indusse Andreotti nell'ottobre del 1990 a rendere nota l'esistenza di Gladio, esistenza peraltro, come lei ricorda nel libro, di cui in qualche modo già se ne sapeva un po' l'esistenza? Sì, si era sempre vociferato dell'esistenza di una struttura segreta più o meno coinvolta in vicende più o meno oscure. Guardi, la questione è molto delicata e quindi fare sempre molta attenzione a evitare, come dire, congetture o ipotesi che poi magari non hanno un reale riscontro. Rimane ancora oggi molto difficile capire perché Andreotti a un certo momento, senza nemmeno interpellare gli alleati, senza neanche interpellare la CIA per esempio, che aveva avuto un ruolo fondamentale nella sezione di Gladio, decide di buttare, diciamo, in pasto all'opinione pubblica questa struttura, di rivelare l'esistenza di questa organizzazione. L'ipotesi più accreditata appunto è stata quella di aver voluto, come dire, scaricare un po' la zavorra. Ecco, buttare in pasto all'opinione pubblica un'organizzazione che certamente era nata in un contesto molto particolare, magari non perfettamente aderente ai principi costituzionali, ma che oggettivamente non ebbe un ruolo nelle vicende più tragiche della nostra storia. Magari questo servì, come dire, a far mobilitare l'opinione pubblica contro un obiettivo preciso, facile, e tenere nascosto quel connubio, quell'osmosi fra aree delle versioni destra e settori degli apparati dello Stato diversi da Gladio, e che oggi sappiamo con, cioè, direi certezza assoluta, essere stata la base della cosiddetta strategia della tensione. E forse anche perché nel 1990, con la fine della guerra fredda, era caduto il muro, era anche cambiato un po' il clima internazionale. Questo sì, certamente stava cambiando, però è sorprendente il modo con il quale Andreotti, diciamo così, improvvisamente, questo avvenne solo in Italia, negli altri paesi europei la rivelazione non fu così improvvisa, fu concordata e se ne parlò, diciamo, in maniera più serena. Qui improvvisamente gli uomini di Gladio, con nomi e cognomi, vennero, come dire, messi in passo all'opinione pubblica, e per molto tempo si è stati convinti che in realtà questa struttura fosse responsabile di quanto di peggio avvenuto in Italia. Ecco, l'obiettivo del libro è quello di ricostruire le origini storiche di Gladio e poi appunto di seguire l'evoluzione di questa organizzazione e delle organizzazioni ad essa collaterali, diciamo così. Bene, allora la ringraziamo molto, Giacomo Pacini, autore di questo interessante libro, Le altre Gladio, la lotta segreta anticomunista in Italia 1943-1991, pubblicato da Einaudi. Buonasera, grazie. Benissimo, grazie a voi, buonasera.